non riesco a carburare. La grande maggioranza di caffè consuma 30 ziglia al giorno. Il caffè è la seconda trattata. Ma serve anche la caffeina può migliorare le nostre prestazioni ambientali. Tutto il mondo si beve caffè. Ma buongiornissimo a tutti, anzi buonanotte per chi va a dormire adesso, che anziché svegliarsi con caffè doppio si addormenta con caffè doppio dopo questo sabato sera che spero vi abbia rilassato dopo la settimana affaticante. Sono le 17 quasi precise, diciamo che erano le 17.00 quando ho mandato la sigla, perciò oggi sono puntuale stranamente. Tra l'altro sono anche da solo qui in studio perché il nostro amico DVX se n'è andato. Cioè, no, vabbè, non pensate male, nel senso se n'è andato, è partito, è andato a trovare un amico fuori Roma e perciò niente, mi ha lasciato qui da solo a fare la trasmissione di questa domenica. Io direi di iniziare subito. Ho deciso di dedicare questa trasmissione interamente a un cantante che è sempre rimasto un po' nell'ombra fin dall'inizio della sua carriera. E niente, visto che in caffè doppio la cosa che vogliamo fare di più è proprio quella di dare spazio ai musicisti emergenti, a chi non ha la possibilità e la fortuna forse di emergere. Allora io direi iniziare subito. Questa puntata è interamente dedicata a Marco Carta. No, vabbè, non ce la faccio, no, è pesce d'aprile, dai. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari. Early in the morning we'll be starting now. Some honeys will be coming along. We're loading up our woody with our boards inside and heading out singing our song. Come on baby, wait for us. I'm gonna take you surfing safari. Bene, sì, era un po' banale, ma il primo aprile, almeno qui a Radio Onda Rossa, siete all'ascolto degli 87.9, a proposito, me lo dimenticavo. Noi i talent show di Mediaset non ce li filiamo, quella merda la buttiamo al cesso. E sculettiamo per bene con un po' di sano rock and roll per tutta l'ora, ebbene sì. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Ed erano i Beach Boys con questo primo pezzo, anzi che primo pezzo, diciamo secondo, però il primo serio. Sono le 17.04 minuti, questo è Caffè Doppio, è Radio Onda Rossa, una puntata interamente dedicata al rock and roll. Tra l'altro la mia prima puntata in primavera e perciò, insomma, ho detto primavera, che si fa a parte andare a raccogliere i fiori? Insomma, ci viene anche un po' di voglia di ballare, almeno a me fa questo effetto quando la mattina esce presto il sole, ma sto dicendo un po' di cassate come quelle siciliane, non ho detto una parolaccia, perciò niente, vabbè, allora qui mi rimproverano perché non vado avanti con la scaletta musicale, allora vi regalo subito un pezzo di Ray Charles, precisamente Mess Around. Sempre che parte, eh? Le vecchie abitudini rimangono valide. 06 491 750, se il vostro bacino è partito incontrollato a ritmo di musica. Minuti 57 secondi, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Allora parliamo un po' di questo rock and roll, anzi no, non ne parliamo per niente, anzi sì, un pochino sì, scusate se sono un po' contrariato, però vi do un paio di nozioni, insomma, questo genere che insomma naturalmente ci fa ballare, ci fa sorridere, nato negli Stati Uniti a fine anni 50, inizio 60, numerosissimi i gruppi che insomma aderirono a questo movimento musicale, appunto questo genere nato negli Stati Uniti negli anni 60, una derivazione del blues, ma io direi che più che parlarne bisognerebbe ascoltarlo e ballarlo, e allora subito un altro pezzo, di questa volta di Bill Haley, Rock Around the Clock, dove tra l'altro fu realizzato il primo assolo di chitarra elettrica come lo conosciamo noi. Buon ascolto. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4. We'll be right back. in seventh, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. How we going strong, and so are you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Insomma, questo Rock Around the Clock, Bill Haley nel 1955 addirittura, non anni 60 ma bensì 5 anni prima, se la matematica non è un'opinione, a quanto pare non la è. Il prossimo pezzo è di nuovo di Ray Charles, in particolare, anzi no, vabbè, Ray Charles ce lo mettiamo dopo. Facciamo così, una sperimentazione, un po' di meta radio, insomma uno spettacolo dove si vede anche come si fa la trasmissione. Vabbè, sto un po' divagando, mi dicono, perciò andiamo avanti con James Brown. Ah no, mi dicevano proprio di stare zitto, non che sto divagando, mi hanno detto stai zitto, mi arrivano male le informazioni. Vabbè, comunque continuiamo con il settimo pezzo, questo è James Brown e il pezzo si intitola naturalmente Sex Machine, 1970. Machine, you got to have the feeling. Sure as you're born, get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Eh sì, il primo squilletto arriva. You got to get that. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his. Get up, get on up. Stay on the scene, get on up. Like a sex machine, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. The way I like it is the way it is. I got my ticket, he's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. E ci arrivano SMS con delle risatine. One more time, yeah. Non ho capito se erano sincere o ironiche. Spero sincere, ma anche se erano ironiche, insomma, non m'offendo. Get on up, get on up, get up, get on up. Get up, get on up, get on up, get on up. Stay on the scene, get on up. Like a loving machine, get on up. E finisce questo pezzo di James Brown. Dovremmo avere in linea un esperto di rock and roll che ci voleva fare una precisazione. Io insomma non sono un espertissimo, sì, però pronto, sì. Speravo di saperne parlare. Pronto? Che c'è? Sì, che mi sente? Va? Mi sentite? Sì, sì. Io volevo dire una cosa, perché dato che proprio questo è il mio campo, è il mio expertise, come dicono in America, io volevo dire che il rock and roll è un genere musicale che nasce negli Stati Uniti, non in America, negli Stati Uniti, sì. Più o meno alla fine degli anni 50-60, ecco, questo volevo dire. Sì, ma questo lo avevamo detto, insomma. Ma guardi, mi sembrava che non fosse stato detto e secondo me era importante, insomma, precisare. No, va benissimo, niente, noi insomma, la ringraziamo. Così, insomma, potete ascoltarlo con un po' più di consapevolezza, ecco, insomma, questo volevo dire. Va benissimo, allora, più va bene, consapevolezza... Allora, niente, buon ascolto, insomma, si prenda un caffettino e niente. Va bene, anche lei, mi raccomando, doppio, eh? Sì, doppio, ma pure triplo, insomma. E niente, bene. Vi ho illuminati, giusto? Giustamente, certo. Guarda, bene, io la ringrazio, veramente non so come avrei fatto senza di lei. Ecco, sono contento anche io di aver apportato il mio contributo alla vostra trasmissione musicale, ecco. Va benissimo. Buona domenica a tutti gli spettatori, arrivederci. Un abbraccio, ciao. Insomma, questa precisazione che in effetti ci serviva, perché insomma il rock and roll non è nato negli Stati Uniti tra gli anni 50 e gli anni 60, ma bensì tra gli anni 50 e gli anni 60 negli Stati Uniti, se ho capito bene la questione è questa. E, perciò niente, direi che possiamo andare avanti a questo punto con la nostra scaletta. Sentivamo James Brown, che faceva anche una parte spettacolare nel film dei Blues Brothers. Allora direi che ci ascoltiamo un pezzo proprio dei due fratelli blues, in particolare un pezzo scritto dal dio del rock and roll, Elvis Presley, naturalmente. Questa è Jailhouse Rock dei Blues Brothers. Direi che questo pezzo è dedicato d'obbligo a chiunque ci stia ascoltando da dentro l'infame carcere. Ciao a tutti e anche a tutte. Ed erano i Blues Brothers con Jailhouse Rock, scritta da Elvis. Tra poco lo incontreremo, non vi preoccupate. Intanto andiamo avanti con Chuck Berry, You Never Can Tell. Ed era Chuck Berry con You Never Can Tell. Intanto un altro collegamento diretto telefonico, anzi diretta telefonica di solito si dice, però collegamento è maschile, perciò io dico diretto, non rompete le scatole voi di là dalla regia, grazie, anche se non stavate dicendo niente. 17:25 minuti, sproloquio a più non posso, dicevo, un altro collegamento, questa volta con il mio compagno di trasmissione che non è accanto a me, ma sta a San Francesco, nonostante stia in Toscana, da quello che ho capito. Ho capito bene? No, non hai capito un cazzo, come al solito tuo. Okay. Comunque buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi dispiace non essere lì in trasmissione oggi, che è primo di aprile, no? Fare un bel pesce d'aprile ai nostri radioascoltatori. No, invece era sul serio. Pronto? Ci sei? Siete? Ehi? Mi senti? Siete? Sì, ci siamo, ci siamo. E tu ci sei? Comunque sì che ci sono, certo. Ok, bravo. Insomma, che ci racconti? Dove stai? Che sta a fa? Ci stai ascoltando almeno? Purtroppo no, perché manca il collegamento internet qua. Che devo fare io con te? Dai. Vabbè, senti, poi ne parliamo fuori onda. Comunque, noi stavamo parlando un po' di rock and roll, come avrai sentito dal fuori onda. Tu che volevi dire? Ci vuoi dire due parole di rock and roll? Alberto che sta qua in regia vuole dire un commento. No, io non ho nemmeno capito sinceramente che cosa hai detto, però in generale a priori, siccome sei tu, ti dico che in generale a priori fa schifo al cazzo, qualsiasi cosa sia il soggetto. grande amico. Vabbè, senti, qui la gente mi dice che vuole ascoltare ancora un po' di rock and roll, è quello che ho detto, l'ho detto anche abbastanza chiaramente, ma se tu sei duro un capa non ti posso fare granché, perciò Quindi metteremo ancora un po' di rock and roll anche in questa puntata, perché mi sembra giusto. Eh sì, certo, perché dicevo è arrivata la primavera, no? Io ancora non avevo fatto una trasmissione primaverile, ho detto che si fa in primavera, a parte cominciare a prendere il sole, si balla, no? Ma ricambio, uno si mette ricambio di stagione. Cambio di stagione, la pulizia di Pasqua. No. Va bene, dai. Vabbè, dai, allora ci ascoltiamo ancora un po' di musica. Un saluto a tutti. Va bene. Un applauso sento. Fantastico. Sì, c'è un applauso sì, perché le campane di San Bartolomeo non le senti? No. Sono anche le campane qua che stanno applaudendo con noi. Ah, fantastico. Va bene, allora grazie a voi e alle campane. Allora andiamo subito avanti con un altro pezzo. Con te ci sentiamo domenica prossima direttamente. Non ti voglio vedere in mezzo alla settimana, mi raccomando. Buona domenica delle Pasque. Delle palle, si chiama? Delle Pasque. Tutti a messa stasera. Ah no, era dei pini, dè. Era dei pini. No, era la domenica dei pini, quelli che fanno i datteri. No, io sono serio, perché ridi? Perché ridi? Vabbè, dai, ciao, ci sentiamo. Senti, allora, adesso andiamo avanti con la nostra scaletta di VX, era di poche parole oggi, stranamente. Vabbè, continuiamo un po' a danzecchiare, è arrivato il momento del dio, signori e signore, Elvis Presley. Wah ba ba loo wah ba bam boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti. Wah ba loo wah ba bam boom, I got a gal named Sue, she know just what to do. I got a gal named Sue, she know just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west. She's a gal that I love best. E partiva già il prossimo pezzo, ma non ve lo faccio ascoltare, un po' per dispetto. Suonano anche qui adesso le campane, anche insomma quasi in contemporanea con quelle di San Bartolomeo, ma non so se era il ritardo della chiamata oppure il fuso orario tra Lazio e Toscana. Probabilmente è molto più probabile, diciamo scientificamente, la questione del fuso orario. Direi che possiamo continuare ad ascoltare subito un altro pezzo. Si ritorna ad ascoltare i Beach Boys come il primo pezzo. Questa volta con un altro pezzo che non potete non conoscere, perciò neanche ve lo presento. Stay. stavo pensando una cosa abbastanza ironica e per me divertente, che però molti di voi non capiranno, anzi la capiranno giusto 4 o 5 persone, che ieri sera ho mangiato seppie. Adesso a me mi viene da ridere, a voi non ve ne frega niente, perciò cambiamo subito argomento, però chi deve capire capisca, insomma. Secondo me ci possiamo ascoltare anche un altro pezzo, dopo aver detto che Wikipedia spara un sacco di cavolate perché dice che i Beach Boys sono un gruppo pop rock. Io non lo so, non so sto granché di critico di musica, però insomma secondo me so rock and roll e basta. Però torniamo ad ascoltare Ray Charles, questa volta sì, ce l'ascoltiamo, I've Got a Woman. Sempre se parte pure questo. È partita, però un po' in ritardo. Facciamo ripartire in ritardo. Eccola, vai. I got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town. Good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah. She says a loving early in the morning just for me. Oh yeah. She says a loving early in the morning just for me. Oh yeah. She says a loving just for me. I got a woman way over town that's good to me. Both day and night, never grumbles or fusses. Da-da. Always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right. Oh yeah. E insomma, sempre in caffè doppio, di nuovo Ray Charles, più famoso per i suoi pezzi blueseggianti piuttosto di quelli verso il rock and roll più sviluppati, ma a questo punto, visto che non è tardi come al solito, qualche altro pezzo suo ce lo ascolteremo tra pochissimo. Intanto andiamo avanti con la nostra scaletta, ci ascoltiamo adesso un pezzo di Jerry Lee Lewis. Se riesco a vedere il titolo ve lo dico, aspettate che giro il microfono, ecco, Great Balls of Fire, sì, me lo ricordavo, era quello che avevo deciso di mandare, per forza, perché se non l'avevo deciso io non si sa chi l'aveva deciso, mi fanno shh dall'altra parte del vetro, anzi no, cioè nel senso dalla mia parte, vabbè, Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. You check my nerve and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, you gripped all the fire. I left in love, thought I thought it was funny. But you came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, you gripped all the fire. Kiss me, baby. Love is sure. sento un po' fiacchetti oggi. E allora vincito 06 49 17 50. Un'altra volta più lento, 06 49 17 50. Driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar? Ed è finito anche questo pezzo, purtroppo. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, era uno quasi degli ultimi pezzi della scaletta che avevo preparato, ma non basta, perché ne voglio ascoltare ancora molti altri. Anch'io sono un po' di poche parole oggi, ma non per niente, ma perché mi va di ascoltare tanta musica. Ci ascoltiamo un altro pezzo, allora, subito, sono i Fats Domino con Jambalaya. Goodbye Joe, mi dargo, mio maio. Mi dargo, volo piro da Dubai. My van, mi disbuon, mio maio. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Pick it tall, feel through jaw, and begin. Son of a gun, we'll have the fun on the wire. E termina anche questo pezzo dei Fats Domino, Jambalaya precisamente, 17:43 minuti primi, sempre all'ascolto di Caffè Doppio e di Radio Onda Rossa sugli 87.9. Vi ricordo ancora una volta il numero di telefono che potete far squillare una volta se vi piace il pezzo, oppure far squillare all'infinito finché non vi rispondo per insultarmi. Ma intanto ci ascoltiamo ancora musica, sempre con il rock and roll. Torniamo con James Brown, in particolare I Feel Good. Questa parte dopo un po', eccolo. I feel nice, the sugar is fine. In realtà prima di oggi ho sempre pensato che l'avesse scritta Garfield questa canzone. Mamma mia, mi avete fatto pensare alle lasagne, mannaggia a voi. Viva le lasagne. Di nuovo era James Brown con I Feel Good. Di nuovo invece pretende un collegamento telefonico l'esperto di rock and roll con cui ci siamo collegati pochissimi minuti fa. Adesso insomma io non ho dato altre nozioni di a proposito del rock and roll. Sì, pronto. Però, cos'è che ho sbagliato adesso? Allora no, io volevo dire una cosa, però prima volevo fare anche una premessa, nel senso che sì, poi le male lingue ci sono. Io ecco, non vorrei che si pensasse che io non ho niente da fare, allora la domenica pomeriggio chiamo Radio Onda Rossa, ecco. Semplicemente il solito discorso di insomma promuovere un po' questo genere nuovo, emergente che è il rock and roll, che ho consultato pure i miei manuali per essere emergente forse negli anni 60, però scusa se ti interrompo. Mi dica. No, dicevo emergente fino a un po' di... No, l'ho interrotta. Vabbè, guardi, lascia perdere, insomma, io pensavo fosse una trasmissione per gruppi emergenti, però forse ho capito male. Io volevo dire che Beach Boys... Sì. Significa spiaggia, ragazzi. Ecco. Sì. Magari qualcuno non lo sapeva, insomma, mi sembrava giusto dirlo. Vabbè. Certo, giustamente una nozione per chi non sa l'inglese, che insomma. No, ma non è una questione di sapere l'inglese o non saperlo, è una questione di, cioè, se uno ci capisce o no, poi se uno deve sapere le cose o non saperle. No, certo, per chi non si intende molto di rock and roll, esatto, comunque esatto. Ricordiamo Beach Boys, spiaggia, me lo ricordi, scusa? Spiaggia, ragazzi. Spiaggia, ragazzi, e perfetto. L'unica cosa è che non viene né dal latino né dal greco, perciò io mi trovo un po' fuori, un po' spaesato, spiaggiato, spaesato, sì. Ah, strano. In questo caso, però vabbè, niente. Ma da che altra lingua potrebbe derivare? Ah, non lo so, guardi, questo sul manuale non c'era scritto. Forse dalla stessa lingua, come la canzone che abbiamo sentito prima, Jumbalaya. Jumbalaya, sì. Ecco, quello invece non significa niente. Ah, ok. Ho capito. Ecco. Va bene. No, ma scusi, perché ride? No, mi sta per caso mi stava per caso prendendo in giro? Eh? Mi stava no, vabbè, la sento ridere, non lo so, credo che mi prenda in giro. Non può neanche ridere? No, vabbè, si può ridere, ma c'è momento in momento. È il mio coniglio che mi fa ridere. Ah, ok, va bene. È molto più spiritoso di lei. Okay, mi scusi allora. Arrivederci, buona domenica. Un saluto a lei e al suo coniglio. Prego, si figuri. Ok, cara. Vabbè, sentite, adesso possiamo continuare una scaletta un po' alternativa. Andiamo poco fuori tema, con prima un predecessore. Predecessore si dice? No, non lo so se si dice. Vabbè, insomma, precedessore. Presedesciore, vabbè, non so come si dice, però comunque quello che viene prima è che faccio lo scientifico, è quello il guaio, non ci riuscirei a dirlo. Vabbè, comunque, un pezzo blues di un artista che già abbiamo ascoltato, vi avevo promesso che avremmo ascoltato altri suoi pezzi, è di nuovo Ray Charles con Hit the Road Jack. Ma però giustamente se non alzo il volume non si sente, no? Infatti voi non avete sentito. Perfetto, allora ve la ripresento, voi fate finta che non l'avete mai sentita. Dagli 87.9 di Radio Onda Rossa con Caffè Doppio, Ray Charles e Hit the Road Jack. If you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, baby, don't you treat me this way. Cause I'll get back on my feet someday. I don't care if you do, cause it's understood, yeah. No, però me lo stavo tenendo dentro e credo sia sbagliato tenersi dentro tutte le cose. No, volevo precisare che io mi sento un po' offeso dall'ultima affermazione del critico di musica rock and roll, così lo potremmo chiamare, perché diceva che il suo coniglio è più spiritoso di me. Ma intanto io sono una persona serissima e perciò non pretendo di far ridere, ecco, solo questo. E dopodiché non vedo cosa c'è da ridere in un coniglio, a meno che uno non faccia uso di sostanze stupefacenti, ecco, neanche questo riesco a dire. Sono veramente offeso. Buster, what you call me? You are ridiculous. What? Well, why don't you just pack your little suitcases and go on back to Bogalusa? Yeah. Well, I just may do that, baby. I just may go hit the road and try to find myself. Find yourself. Well, if you do, and when you do, get lost. Who, me? That's right, hit the road, Jack. And don't you come back. Inviterei anche l'esperto di rock and roll, se ne ha il coraggio, di richiamare per avere un confronto civile, come due adulti sanno fare, insomma, perché non mi sembra assolutamente il caso di offendere così in onda, no? Visto, non ha richiamato, perciò era anche una persona, insomma, vigliacco, ecco, te l'ho detto, mo. No, sta squilla al telefono, non va bene. Ecco, invece è di nuovo in diretta, pronto? Cosa da dire rispetto a quello che le dicevo? Mi dica. Ho capito, guardi, non è che sono Berlusconi che chiamo tutti in diretta. Mamma mia, veramente sembra così, sembra brutto, ecco. Ma che uno veramente non c'ha niente da fare. Cosa c'entra il cavaliere, mi scusi? No, il cavaliere, come lo chiama lei, che non mi sembra proprio un cavaliere, ma insomma non si fa politica adesso in questo momento. Io non faccio riferimento a Berlusconi dal punto di vista politico, ecco, poi se lei vuole fare politica me lo dica. Vabbè, io sto in Onda Rossa, è questo che Radio Onda Rossa fa. Poi se insomma lei non, se non vuole parlare di politica... No, io voglio parlare di musica, veramente. Allora parliamo di musica, prego. Musica, sì. È la mia materia preferita. Ok, va bene, allora insomma mi dica qualcosa di musica, visto che vuole parlare di musica. Ma le ho detto tutto quello che c'è da sapere, le ho detto... Vabbè, mi sembra che sa un po' poco per essere un esperto di rock and roll, o no? Mi dispiace, ma guardi, questo non me lo faccio dire da lei, eh. Vabbè, ma allora insomma... chiamare, cosa voleva sapere da me? Ma niente, semplicemente avere un confronto un po' più civile rispetto a una chiamata così e poi un ciao. Un confronto civile... Una chiamata così? Vabbè, se non ho niente da dire, guardi, no, niente, scusami, c'è il mio coniglio qua che mi ha distratto un'altra volta. E non saprei che dirle più di quello che le ho detto, ecco, insomma, non mi sembra un confronto civile questo. Vabbè, ciao Pia, stasera. La bella, se becchiamo dopo. Ciao. Ciao, ciao. Va bene, allora andiamo avanti con la nostra scaletta, Led Zeppelin con Rock and Roll. Conclude con questo bellissimo pezzo dei Led Zeppelin, precisamente Rock and Roll, questa puntata di Caffè Doppio, questa domenica 1 marzo, precisamente domenica del pesce, sì, 1 marzo, cioè con le date non ci ho mai saputo fare, mai ci saprò fare, dovrei fare un corso di date più che di dizione per far radio. E mi dicono di nuovo stare zitto, guardate, mi sa che non ci sentiremo mai più, mi dispiace, arrivederci. E a domenica prossima. No, domenica prossima no, aspetta, è troppo banale. Come posso chiudere? Dunque, 17:59 minuti, questi erano i Led Zeppelin con Rock and Roll, un pezzo un po' successivo agli anni 60, mi sembra che sia del 72 precisamente, però si intitola Rock and Roll e nonostante sia, non sia proprio rock and roll, ma più hard rock, ce lo siamo ascoltato lo stesso, ci è piaciuto, almeno a me mi è piaciuto, a voi non lo so, ma mi sto di nuovo dilungando come al solito. 17:59 minuti, 42 secondi, 87.9, Caffè Doppio vi saluta e vi ridà l'appuntamento per domenica prossima. Un saluto a tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici e chi come al solito ci ascolta da dietro le sbarre. Ciao, adesso vi lasciamo i comandi a Jasi. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè è la seconda materia prima trattata sui mercati finanziari. 60 milioni di tazzine al giorno. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè, il caffè. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le nostre prestazioni mentali.